3, 2, 1. Puntata numero 2 dell'incredulo, incredulo perché io non me la bevo tutte queste newegiate, la energia qui là sotto e sopra, a me non mi fregate, ma è preferibile mantenere sempre un determinato livello di dubbio, è preferibile mettersi in discussione ogni volta e pertanto questa mia incredulità spesso ostinata è importante che venga messa alla prova. E per fare questo, naturalmente, non è che io mi metto qui a fare il pippone, mi metto a meditare, ma ci rivolgiamo e ci riferiamo a chi di queste cose ne sa molto più di me, e questa persona è la nostra Elisa Pasquini, alias Elisa, perché non è che uno si chiama Elisa Pasquini. Buongiorno, come stai oggi? Mi difendo, ancora non ho provato i fior di Bach, peccato che non siano da fumare, ma comunque sono sulla strada per cercare perlomeno di aprire questa mia testa di pietra a esperienze e conoscenze nuove. E Elisa, oggi ti chiederei di parlare un pochino di quello che chiamano il latte d'oro e dell'ingrediente che lo compone, che poi è la curcuma. Su internet un amico mi fa: ah, guarda, ti farebbe bene, vedi, questa è la ricetta, bla bla bla bla bla, e in effetti per un po' me lo sono preso, però dico, alla fine è una spezia e è latte di mandorla, ma che farà mai questo latte d'oro? Prima di parlare del famoso golden milk o latte d'oro, iniziamo a parlare dell'ingrediente che c'è dentro, che è la curcuma. La curcuma è ormai una spezia molto conosciuta anche in Occidente, per chi vuole la utilizza anche nella cucina. Si trova sotto forma o di polvere color arancio scuro, oppure in un tubero fresco che, diciamo, assomiglia molto a una radice. La pianta fresca, diciamo, è da preferire sempre rispetto alla polvere, però devo dire che il tuberino è un po' una menata, quindi se volete giocare facile prendete la polverina. Attenzione, perché la polvere tinge, nel senso che la curcuma nasce ai tempi d'oro come colorante per i vestiti, quindi state attenti quando la usate, perché poi vi diventano tutte le mani gialle o arancioni e sembrate più che una persona che si occupa di benessere di un tabagista incallito. Questa polvere di curcuma dove si trova? Si trova in erboristeria o anche quella del supermercato funziona? La trovate in tutti i supermercati, potete tranquillamente comprarla in supermercato nel reparto delle spezie. Ok. Funziona benissimo, è chiaro, da preferire quella biologica come in tutte le cose, però anche quella che trovate tranquillamente nei grandi supermercati va bene. E quando abbiamo questa curcuma, come la lavoriamo, come la prendiamo, che cosa ci facciamo? La si può usare per condire un piatto, che ne so, una vellutata, delle verdure, può essere messa anche nei dolci. Se usata a dosi, diciamo, minime, non ha un sapore molto invasivo, quindi non si sente molto. Potete aggiungere, non lo so, alla carne, al pesce, sempre in dosi minime e soprattutto cercando di non alterare il gusto della pietanza, soprattutto se sono pietanze con un sapore delicato. Oppure la potete usare per fare la golden paste o la golden, e poi da lì fare il golden milk. E quindi fate questa pasta che dopo vi spiegherò e ve ne darò la ricetta, e questa pasta potete usarla sia per fare il latte che, per, se avete degli animali, per aggiungere alla loro pasta, perché è un ottimo condroprotettore, quindi va a lavorare sulle articolazioni dei cani e dei gatti. E lavora sulle articolazioni anche degli uomini, o sugli uomini ha anche altri tipi di effetti benefici? sicuramente aggiungendo lo zenzero che c'è nella golden paste insieme alla curcuma, ha un effetto di antidolorifico e anti, diciamo, sgonfia, quindi è un protettore anche per le nostre articolazioni. Sicuramente sì, sugli animali se ne sente di più il beneficio, su di noi ha tantissimi effetti benefici. Ve ne elenco 7 principali. Il detossificante, quindi aiuta nella dieta detox, ottima visto che comunque Natale e i cenoni sono passati da poco, aiuta a eliminare tantissimo le tossine. Protegge il cuore, quindi aiuta a abbassare anche il colesterolo grazie alla curcumina, che è quell'essenza che è contenuta all'interno della curcuma. Previene il sistema cardiovascolare e contrasta tutte le malattie cardiache. Aiuta lo stomaco, quindi per chi ha la gastrite, dolori, spasmi, aiuta a alleviare appunto il dolore dell'apparato digerente. Fa bene anche alle cellule nervose, quindi stimola il cervello, rallenta l'invecchiamento e quindi è anche un antiossidante, previene tutte le infiammazioni a carico del sistema nervoso centrale. Aiuta per chi è sempre a dieta nella perdita del peso, perché ha un ottimo potere digestivo e favorisce quindi tutta la digestione, aumenta quindi il metabolismo e inibisce anche le cellule adipose che insomma si formano e quindi che il nostro corpo ingrassi. Inibisce anche la capacità di assorbire sostanze nutritive a noi, diciamo, tossiche. Contrasta i gonfiori, quindi per chi ha pesantezza della pancia e dopo aver mangiato si gonfia, aiuta i gonfiori, anche la flatulenza, e è un antibatterico, quindi aiuta a prevenire raffreddore, mal di gola, tutti i mali di stagione che ora ci accompagnano. Magari aggiungendo, non lo so, una tisana con la curcuma all'interno, con miele e limone, sfiamma il caporale e la gola. Diciamo che queste sono più o meno le principali caratteristiche e proprietà della curcuma. Elisa, in farmacia, nei farmaci c'è scritto anche il dosaggio, perché se preso troppo o se preso nei momenti o nelle dosi sbagliate, il farmaco, il principio attivo, rischia di essere tossico. Di fatto conosco un tizio che aveva trovato non so che essenza, forse in farmacia, tipo di una pianta, dente di leone, dice ah, mi fa stare bene, ne prese così tanta che alla fine si è avvelenato e ora sta malissimo. Per cui questi prodotti a base di curcuma o il consumo di curcuma in generale ha delle controindicazioni, ha dei limiti, ha dei momenti precisi in cui va assunto? Allora, controindicazioni no, è chiaro che il sapore è una controindicazione, perché un pochino di sapore ce l'ha, nel senso che se ci mettete mezzo barattolo dentro la vellutata poi mi fa schifo. Quindi io consiglio sempre di usare mezzo cucchiaino, un cucchiaino, in base un pochino anche a quanto siete abituati a questo sapore. Ne basta poco e magari nei periodi in cui soffrite maggiormente di, non lo so, gonfiore, un pochino tutti i giorni o a tutti i pasti, però giusto mezzo cucchiaino, una puntina, non che vi faccia male, però è un sapore che, essendo noi occidentali, non ci siamo abituati, cosa che magari persone dell'India sono molto più abituate a questi sapori un po' forti, che per noi sono, cioè, non ci piacciono, ecco, quindi non ci siamo abituati e ce la fanno magari schifare. E chi vive vicino agli indiani o nello stesso palazzo dove stanno gli indiani effettivamente fa notare che l'odore di spezie che esce dalle loro cucine è fortissimo. Anche per noi che in Toscana di spezie nel cibo ne mettiamo tante, quell'odore di arrosto che si sente quando si passa per la via. Allora, Elisa, la curiosità è tantissima, parlaci di questa pasta di curcuma e poi di come la si trasforma in questo latte d'oro. Partiamo dalla ricetta per la golden paste. Questa è una ricetta vegana, quindi è fatta sia della golden milk che della golden paste, è fatta senza aggiunta né di miele o di latte vaccino, diciamo, però alle persone potete tranquillamente aggiungere qualsiasi cosa vogliate che vi fa, che riteniate vi faccia bene. Quindi golden paste, la pasta, 200 ml di acqua, 100 g di curcuma in polvere, un pochino di pepe nero macinato e potete aggiungere, se vi piace, lo zenzero, che è ottimo per, diciamo, anche questo come antinfiammatorio, la noce moscata, la cannella e la vaniglia, che vanno un pochino a insaporire e a dare un gusto un pochino più dolce e, diciamo, un odore un pochino più familiare a noi. Come si fa la pasta? Si mescola il pepe nero e la curcuma e le altre spezie che volete aggiungere a piacimento. Anche lì ricordo, aggiungetene pochine, soprattutto la prima volta che la fate, perché se poi la fate troppo speziata si ritorna lì, non vi piace. E aggiungete l'acqua fredda, filo a filo, mescolate senza formare grumi. In un pentolino scaldate tutto finché non ottenete una pasta densa. Deve essere più o meno della densità di una maionese, ok? Un pochino, forse un pochino più liquida, però più o meno della densità di una maionese fatta in casa. Va messa in un barattolo di vetro, una volta fredda la conservate in frigo. Si conserva dai 30 ai 45 giorni, più o meno. Mentre avete preparato questa pasta, per fare il golden milk dovete prendere invece 300 ml di latte vegetale, quindi riso, avena, mandorla, soia, qualsiasi cosa che è vegetale, mezzo cucchiaino di olio di semi di canapa o di mandorla e ci aggiungete un cucchiaino di pasta di curcuma e, se volete addolcirla, lo sciroppo di malto, lo sciroppo d'acero, la stevia o qualsiasi, se volete anche lo zucchero, ma lo zucchero non è che faccia così tanto bene. È un veleno, qualcuno sì dice. Sì. Ok, e, d'accordo, si prepara questo latte e lo si beve. Quanto sì consigli di berne al giorno? Perché come c'è gente che piglia 20-30 caffè, ci sarà gente che dice: ah, la curcuma fa bene, bu bu bu, e se ne spara un par di litri al giorno. Ma io consiglierei una tazza con le americane, quindi la famosa mug. Una, se poi avete il raffreddore, state tanto male, massimo due volte al giorno, ecco, se sentite un pochino di bruciore alla gola, ecco, ma non di più. Non ha un sapore così tanto, diciamo, piacevole come può essere bersi una bella tisanina, perché comunque la curcuma si sente tanto nella bevanda, quindi dopo un pochino stucca berla, quindi una, massimo due tazzine, non di più. D'altra parte sono tanti i benefici, a quanto pare, di questo principio attivo, di questa spezia, cioè della spezia e del principio attivo che contiene, e poi anche di queste bevande che si preparano aggiungendo la curcuma e lavorata in pasta, naturalmente, per questo latte, sì, ok, d'accordo. Elisa, grazie. A questo punto è il momento di andare al supermercato o in erboristeria e reperire la curcuma in qualche modo. Io manco so di che colore è. E te l'ho detto prima, però. Porca, non sono stato attento. È di colore giallo. Arancione. Giallo, arancione, più arancione che giallo. Di quel colore indiano che c'hanno a volte quei piatti che si mangiano al ristorante. A questo punto vale la pena di prenderla, anche perché negli Stati Uniti è emergenza influenza, sembra che 20 casi in più rispetto all'anno scorso, sappiamo come sono i media americani, siano una tragedia. Bene, pare che questa sia un rimedio. Quindi, Elisa, grazie delle tue informazioni, grazie della tua pazienza, perché la mia incredulità è insopportabile. Grazie a te e alla prossima puntata, allora. Ok, d'accordo. Sarà preferibile che mi vada a preparare un po' di latte di curcuma, se ne trovo in giro. Grazie. Olè. Grazie a te.